5-6 anni fa era il considerare che a Palermo è al quart'ultimo posto nelle città come reddito pro capite ed è al sesto posto come consumi. Questa cosa mi fa pensare niente, dice, ma come, se piccolo non c'è mai, com'è che è al sesto posto come consumi? E che vuol dire che i soldi ci sono? E che vuol dire che ruota tutta un'economia illegale, non fatta solo di lavoro nero, ma essenzialmente di lavoro nero, di evasione fiscale, eccetera, di traffici di droga e quindi di denari illegali, eccetera, che rende questa città ricca, ma che finisce sempre, è una ricchezza che viene distribuita su canali che non hanno niente a che fare con i canali delle normali nazioni che si basano su leggi regolari e oneste. Fra l'altro il tutto è appesantito dal fatto che negli ultimi anni abbiamo assistito a questa ignominiosa, come si dice, legalizzazione della legalità, della illegalità, cioè ciò che era illegale ormai diventa passabile. E quindi pochi, tranne noi che abbiamo un minimo di coscienza politica, si sono stupiti quando Cuffaro ha avuto, come si dice, questa sfrontatezza di dire, ma in fondo è come se era contento di essere stato condannato, perché era come se fosse stato assolto all'infamia più grossa, quella di essere in combutta con i mafiosi. Cioè uno è condannato a 5 anni ed è contento, cornuto è contento. No vabbè, scusatemi, no, spero che non l'avrei registrato, perché sennò poi può fare una denuncia. Fra l'altro anche il nostro benemerito dell'Utri ha detto Cuffaro è una splendida macchina di voti, però a governare non se la sa, non c'è fine. E su Ricciardo, che è stato condannato e in via definitiva a 7 anni per associazione mafiosa, gli possiamo anche credere. Mi stava venendo una cosa antista, Dio li fa e l'uomo li accoppia, no, e nessuno li accoppa. Vabbè, il volendo un po' chiudere quindi un po' questa sorta di, come si dice, di quadro per molti aspetti negativo che io ho fatto sulla situazione in cui viviamo, ci si può dire c'è qualche speranza. Per me, secondo me, speranze ce ne sono poche, perché ormai i livelli di assuefazione sono tantissimi. Non c'è più la possibilità o il piacere di vedersi, come stiamo vedendo in questo momento, incontrarsi, discutere, costruire assieme. Cioè uno dei meccanismi della vita in cui viviamo non è più quell'ottocentesco in cui c'era più o meno il partito, se volete anche la parrocchia, qualsiasi cosa in cui si potevano scambiare delle parole. Assolutamente, c'è la nostra casa, la sera, la televisione e qualche volta che si incontra qualche amico personale a dire ciao e finisce tutto là. Quindi mancando questa capacità di aggregazione c'è questa solitudine complessiva, che fra l'altro è una solitudine che noi siciliani da sempre ci siamo cercati. Guardate bene, per esempio, una delle caratteristiche è il rifiuto o almeno la scarsissima valutazione nella nostra economia dei meccanismi cooperativistici. Non c'è paragone tra il numero di cooperative che ci sono, non so, in paesi come l'Umbria o l'Emilia e quello che pochissime che abbiamo qua, e se ce ne sono poche, queste cooperative che dovrebbero più o meno avere un minimo di gestione, come si dice, di sinistra, finiscono con l'entrare in un circuito che è quello in cui Cosa Nostra ci mette sempre il naso. Non mi dimenticherò come Michelangelo Russo, che era un dirigente del Partito Comunista, una volta ebbe a dire, ma in fondo non possiamo fargli l'analisi di sangue a tutti. Mi fermo perché mi sta venendo un poco di depressione a parlare di queste cose.